Radio 24 Reportage. Quelli che ci difendono da Ebola. L'epidemia vista dal suo epicentro. Di Gigi Donelli. L'emergenza Ebola in Africa occidentale. Ci colleghiamo con l'ospedale di Pugeun, distretto meridionale, il più meridionale dei distretti del Sierra Leone, dove raggiungiamo il dottor Paolo Setti Carraro, al lavoro con altri colleghi nell'ambito del progetto del QAM, Medici con l'Africa. E a lui subito innanzitutto chiediamo qual è la situazione appunto nell'ospedale. La situazione ospedale è caratterizzata da una riduzione dell'afflusso dei pazienti meno gravi e da una, diciamo così, una costanza di afflusso di pazienti severi. Malarie cerebrali gravi, problemi, diciamo così, parti ostruiti, emorragie continuano ad arrivare in maniera regolare, più o meno nello stesso numero. I casi meno gravi sono invece drasticamente ridotti. Ecco, come si innesca su una situazione già critica un'emergenza planetaria, possiamo dire, come quella di Ebola? Direi che la crescita della consapevolezza della gravità della situazione è stata molto lenta in questi mesi. Qui si parla di un'epidemia che è partita a fine dicembre e che lentamente si è estesa nei distretti orientali del paese, con qualche caso sporadico intorno alla capitale. Trasferito lì da gente che si è mossa da queste zone verso la capitale. Direi che il punto è proprio la consapevolezza della gravità del problema e l'ignoranza del problema. E questa, diciamo, la presa di coscienza è stata molto lenta e solo ultimamente, di fronte all'aumento dei casi e alla, diciamo così, all'informazione che è stata data alla popolazione, la situazione comincia a essere sotto controllo. Quando dice sotto controllo, che cosa intende? Che le persone non si muovono più, che i casi vengono riconosciuti? Ecco, questo significa che sono stati formati dei team e sono ancora in formazione dei team che sono, diciamo, che hanno dei compiti molto specifici. Ci sono dei team di contact tracers, sono quelli che vanno in giro per i paesi dove ci sono stati dei casi a individuare tutte le persone che hanno avuto contatto col malato nella fase di malattia, perché è soltanto nella fase di malattia che il malato è infettivo, non prima e non dopo in periodo di convalescenza. I secondi team importanti che sono in giro sono quelli, diciamo, deputati all'identificazione dei malati, e da ieri a Kenema, nella città di Kenema, dove si sono trovati dei morti per strada, è cominciata una ricerca casa per casa delle persone malate, per cui l'afflusso di sospetti o malati all'ospedale è drasticamente aumentato tra ieri e oggi. La terza cosa è avere delle strutture dedicate sia per l'isolamento sia per il trattamento dei pazienti. Ci sono due centri di trattamento, uno a Kenema, l'ospedale governativo, uno a Kailaun, che è gestito da MSF. E poi adesso, recentemente, anche a Bo, MSF ha messo in piedi una struttura di trattamento dei pazienti. Hanno avuto l'autorizzazione a trattare i pazienti. Voi in queste settimane, quindi, avete avuto il contatto diretto con dei casi di infezione di Ebola? Noi abbiamo avuto due pazienti, inizialmente sospetti, poi confermati, che sono stati ricoverati nell'unità di isolamento dell'ospedale, poi trasferiti al momento della diagnosi, una volta fatta la diagnosi, che purtroppo prende 48 ore nei casi più lenti e in altri casi anche meno di 6 ore. Comunque per noi sono state 48 ore, abbiamo trattato i pazienti, li abbiamo trasferiti a Kenema, al centro di trattamento governativo, dove purtroppo però sono morti tutti e due. Parliamo di possibilità di sopravvivenza. Nell'esperienza che appunto state registrando su quello che di fatto è la prima linea di questa crisi, di questa epidemia, i livelli di sopravvivenza che vengono indicati, almeno sulla stampa mondiale, di meno del 10%. No, direi che questa è un'estrema, cioè la sopravvivenza nelle epidemie che sono state in giro per il mondo oscilla dal 40 al, scusi, la mortalità oscilla dal 40 al 90%. Il 90% di mortalità è un estremo, quindi lei mi dice sopravvivenza del 10% è un estremo. In realtà i dati che abbiamo in mano in questo momento sono di due tipi, quelli emessi da MSF con una sopravvivenza intorno al 25-28%, quelli emessi dall'ospedale governativo in cui la sopravvivenza sarebbe anche superiore al 40%. Allora c'è da dire una cosa, la fase iniziale, il trattamento iniziale del paziente che è affetto da vomito e diarrea, soprattutto da vomito e diarrea, prevede una reidratazione aggressiva, nonché la copertura per le possibili patologie associate come la malaria, infezioni, eccetera. Se questo trattamento aggressivo viene a mancare, le condizioni del paziente rapidamente decadono e la morte è più probabile. Il fatto che a Kenema ci siano più sopravvissuti rispetto a Kailaundo e lavora MSF, da MSF viene attribuito al fatto che Kenema testerebbe positivi un certo numero di pazienti che in realtà sono falsi positivi e quindi destinati a sopravvivere comunque. Direi che si può pensare che la sopravvivenza possa essere almeno dell'ordine del 25-30%. Trattati tempestivamente, in che modo? In che modo? Reidratazione, copertura antibiotica e antimalarici, antidolorifici per il paziente che veramente sono angosciati e quindi diciamo, la sedazione, il supporto antidolorifico, diciamo, analgesico è fondamentale perché loro sono veramente angosciati. È chiaro che il paziente deve rivolgersi poi al centro di trattamento in maniera tempestiva, non può aspettare 2 o 3 giorni a casa, arrivare completamente disidratato. Quindi l'importante è convincere la gente a venire in ospedale appena si manifestano i sintomi. C'è la percezione che sia una malattia mortale, per cui senza speranza, ed è una percezione che attanaglia un po' tutti. Ci sono delle voci per cui chi va in ospedale viene poi trattato con iniezioni letali e quindi viene ucciso. Per controllare l'opposizione politica piuttosto che per controllare la natalità e la crescita, diciamo così, la sovrappopolazione, eccetera, eccetera. Quindi ci sono tanti rumors sparsi ad arte dalla gente e che naturalmente in un territorio di poca cultura, di grande analfabetismo diciamo così, pensiero tradizionale viene, diciamo così, amplificato e quindi la gente quando arriva ha veramente paura, oltre al fatto che sta male. 60 operatori sanitari hanno perso la vita in Sierra Leone e in Liberia. Come si mantiene una struttura che presenta dei rischi molto specifici? Direi soprattutto sul colloquio quotidiano, sul sostegno reciproco, sul monitoraggio reciproco, sulla formazione e soprattutto sull'abbandono di alcune pratiche. Quando si parla di 60 operatori sanitari, il dato è vero, corrisponde anche Khan, il dottor Khan è morto, purtroppo si è infettato durante il lavoro con una mossa strana, si è deterso un occhio togliendosi i guanti e si è contaminato in questo modo. Questo è almeno quello che si racconta. Tornando indietro, il personale sanitario qui è scarso. All'inizio la gente non veniva in ospedale, non voleva andare in ospedale per i motivi che abbiamo detto, tendeva a farsi curare a casa. Personale sanitario scarso, attività libero-professionale, possibilità di guadagno, la gente, gli infermieri andavano a casa e curavano i pazienti a casa. In questo modo hanno da un lato diffuso l'infezione, secondo hanno contratto l'infezione e l'hanno poi trasferita in ospedale. Questa è la storia epidemiologica per quanto riguarda l'ospedale di Kenema, dove sono morti 20 infermieri, la Metron e il dottor Khan. La descrizione che lei ci fa è piuttosto spaventosa. Una mossa sbagliata, cioè detergersi un occhio, può essere letale. In che modo si convive con questo stress lei e i suoi colleghi che ogni giorno hanno a che fare con queste esigenze? Bisogna parlare, discutere e adottare tutte le precauzioni standard con un livello di innalzamento delle precauzioni a tutti i livelli in qualsiasi manovra che si fa in ospedale. E quindi questo è un discorso base. Il personale che viene direttamente a contatto con il paziente noto, sintomatico o con il sospetto deve adottare determinate, deve indossare determinati strumenti di protezione individuale che vanno indossati, soprattutto vanno tolti seguendo dei protocolli molto precisi, molto laboriosi, molto lenti. E capisce che quando uno dopo 4, 5, 6 ore che è all'interno di una tenda trattando i malati esce e finalmente vede la fine del suo turno, quello è il momento del massimo rischio. Perché cala la tensione, non ne puoi più, sei sudato, sei fradicio, hai addosso questa plastica che ti fa sudare da tutte le parti e quelli sono i momenti più pericolosi per il personale, perché è lì che si contrae l'infezione. Dottore, nel ringraziarla per il lavoro che state facendo e prima di salutarla, dal punto di vista delle dotazioni, avete ciò che serve adesso per gestire questa emergenza? Allora, stanno arrivando su delle, diciamo, forniture di materiali per la difesa individuale e noi le stiamo acquistando anche sul mercato e distribuendo a tutto il personale. Quelle specifiche, i PPE, cioè diciamo, questi scafandri che vedete nelle fotografie, eccetera, sono in numero per il momento limitato. MSF li acquista direttamente all'estero, dal Ministero ne arrivano pochi, calcoli che per trattare un paziente ce ne vogliono una ventina al giorno e questo è un po' il punto debole. Mi auguro che l'Organizzazione Mondiale della Sanità si concentri sulla fornitura di questi strumenti, soprattutto per coloro che sono direttamente esposti. Per tutti gli altri bastano veramente diciamo, i presidi normali, quindi i guanti, i grembiuli di plastica, i gowns, diciamo così, le coperture individuali, gli stivali che ci sono, gli occhiali protettivi, eccetera. Ma questi ci sono e ne stanno arrivando in discreta quantità. Devono continuare ad arrivare, certo. In tutto questo voi continuate quella che poi era la vostra missione originaria. Come ho detto, voi, lei, dottor Setti Carraro, non è in Sierra Leone per occuparsi in maniera specifica di Ebola, ma per occuparsi di donne, di bambini. La vita continua intorno a questa epidemia o dentro questa epidemia? Allora, direi che la vita continua all'interno di questa epidemia e non dimentichiamo che la gente muore di complicanze del parto, di emorragie, di malaria, che fanno molto meno notizia di Ebola e uccidono molto più di Ebola. Cioè noi i morti di malaria severa li contiamo tra i bambini di questo ospedale, di questo distretto, a centinaia. Quindi moltiplichiamolo per il paese, sono 13 distretti, moltiplichiamolo per l'Africa e vede che i numeri di questa, diciamo così, questa strage silenziosa che non fa notizia sono grandi, sono molto più grandi di Ebola. Ebola fa paura molto in Occidente perché non c'è terapia, fa paura perché si diffonde in maniera molto subdola, la malaria si trasmette in maniera molto più, diciamo, nota e chiara. E la gente muore soprattutto di malaria e di complicanze al parto. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.